Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Un doppio sguardo in questa puntata della rubrica realizzata insieme alla Caritas, lo sguardo internazionale ai Caraibi e poi lo sguardo al nostro territorio nazionale. Partiamo dall'uragano Matthew, come sappiamo ha colpito ancora una volta il paese tra i più poveri del mondo, che è Haiti, già devastato dal terremoto del 2010. Il numero delle vittime ancora non del tutto calcolato, purtroppo sicuramente sono più di 15.000 gli sfollati e 350.000 le persone che hanno bisogno di aiuti immediati. Si stima siano state colpite da questo uragano oltre 5 milioni di persone, venti a oltre 200 km all'ora, con molte aree isolate, comunicazione, strade interrotte, case completamente distrutte, coltivazioni danneggiate e anche grandi quantità di capi di bestiame persi. Disastro doppio, diciamo così, perché la popolazione di molte di quelle zone sopravvive proprio con le attività agricole e di allevamento. Le distruzioni, le grandi masse d'acqua facilitano ovviamente l'insorgere di epidemie di colera, manca l'acqua potabile e c'è anche il rischio di diffusione della malaria. Acqua, cibo, beni di prima necessità è quello che serve. Il Papa ha già espresso nei giorni scorsi la sua solidarietà, incoraggiando a mandare aiuti immediati. Caritas Haiti si è subito attivata in coordinamento con le autorità locali, in modo particolare Centre d'Opération d'Urgence Departemental, per dare una risposta tempestiva ed efficace, in particolare in alcune diocesi, Jérémie-Nippe, Cay, Jacmel e Port-de-Paix. Inoltre, in collegamento con la rete internazionale della Caritas, ha lanciato un appello per aiuti a 2.700 famiglie, parliamo di un totale di 13.500 persone, per comprare e distribuire 2.700 kit alimentari, la distribuzione di altrettanti kit di igiene e programmi per consigliare e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie infettive. Anche la Caritas italiana, che già da anni era impegnata, ancora di più dopo il terremoto del 2010, ha subito espresso vicinanza nella preghiera e nella solidarietà a Caritas Haiti ed è pronta a sostenerne gli interventi per questa nuova emergenza. In collegamento con la rete internazionale della Caritas, le congregazioni e le organizzazioni del posto con cui ha finora collaborato per realizzare progetti di riabilitazione, sviluppo rurale e sostegno alle fasce deboli. Ulteriori aggiornamenti e dettagli anche sul sito caritas.it. Veniamo alle cose nostre, alle cose italiane. Nelle prossime settimane si dovrebbe concludere il percorso di approvazione del disegno di legge delega in materia di contrasto alla povertà e il governo dovrebbe prendere decisioni in merito al piano nazionale contro la povertà e anche agli stanziamenti da rendere disponibili con la legge di bilancio, o legge finanziaria come si chiamava una volta, o meglio legge di stabilità. L'insieme di questi atti definirà la strategia del governo per contrastare la povertà in Italia nei prossimi anni. In vista di questi importanti appuntamenti, la Caritas ha pubblicato per il terzo anno consecutivo un rapporto sulle politiche contro la povertà in Italia dal titolo Non fermiamo la riforma. Il rapporto è disponibile in versione integrale sul sito caritas.it. Il governo scrive appunto la Caritas, ha avuto l'indubbio merito di scardinare lo storico disinteresse della politica italiana nei confronti della povertà, ma ora bisogna passare a scelte concrete. Infatti siamo l'unico paese in Europa, insieme alla Grecia, privo di una misura nazionale universalistica contro la povertà assoluta, ossia l'indigenza vera e propria dovuta alla mancanza di risorse economiche necessarie per conseguire uno standard di vita che l'Istat definisce minimamente accettabile: alimentazione, abitazione, vestiario, trasporti e così via. La povertà assoluta negli ultimi anni è aumentata fino ad esplodere. Le persone coinvolte sono salite da 1.800.000 nel 2007, prima dell'esplosione della crisi economica, a 4.600.000 l'anno scorso, quindi immaginiamo numeri ancora più alti quest'anno. Un'ipotesi appunto di stanziamento è per il primo anno di questo progetto di 2 miliardi, poi di aumentare lo stanziamento di 1 miliardo e 6 ogni anno fino ad arrivare dal 2020 in avanti a un finanziamento stabile di 7 miliardi di euro per raggiungere più persone possibile. Il rapporto sulle politiche contro la povertà si collega al rapporto sulla povertà e l'esclusione coesione sociale che sarà presentato online lunedì 17 in concomitanza con la giornata internazionale contro la povertà. Ulteriori dettagli, come detto, sul sito caritas.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.